Zeta. Ma che fine di merda che ti aspetta, Beretta? Giullari viaggiatori, mannate una fan. Noi siamo i giullari che ha viaggiato in mezzo ai mari, dei modesti produttori, quei coglioni triangolari. Mentre tu sei un poveretto che proviene dalla Cina, mentre immagini quel film, la tua fine si avvicina. Slow style, ci piace suonare. Slow style, mettiamo a rompare. Slow style, ci è toccato inventare. Slow style, vai style per non farlo incazzare. Ma lo senti quanta merda che ti metti a sfornare? Ora stiamo ad aspettare il tuo nuovo brano suonato. Un remix di Ligabue, che sfigato. Modre di Gimenuca dai fa. Oh lo abazze, ma battela di stroncanner capra. Ave l'amministratore con il cuore ghiacciato. Ti ricordi poveretto quell'utente che è bannato? Ti saluta Majin Bu.